erano tre fratelli pescatori, con una mamma bianca, con una barca nera e con tre cuori ancora da creatura. Il mare urlava cupo quella sera e il legno dell'incognita straniera cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Mare, mare crudele, come puoi cantare nelle notti scure quando piange il cuore? Soffocasti in gola l'ultima speranza, l'ultima parola. La barca torna sola. Della leggenda dei tre pescatori resta una mamma bianca ed una barca nera che in fondo al molo a tutti fa paura. Le vele si raccontano fra loro che la sirena dai capelli d'oro serva il segreto dei tre pescatori. Ma quel segreto chi potrà svelare se l'onda indifferente viene e va?